piove. Come ti senti? Io mi sento così. Lei è la pioggia che nel mio cuore riapre le ferite. Cade la pioggia, scende dall'alto come dinamite. Lei è la pioggia, la vedo, la tristezza mi assale. Cade la pioggia, ecco l'effetto che mi fa il temporale. Ormai sono per strada già da un paio d'ore. La guardo cadere, ascolto il rumore. Poi divento debole, mi si spegne il motore. Ripensa al passato ed ecco tornare il dolore. Anche se l'ho scappata ritornando dalla morte, ci sto ripensando, solo questa è la mia sorte. Purtroppo non l'ho fatto, non ho dimenticato, ma mi devo convincere, ormai è passato il periodo più dolce come il cioccolato. Ma devo accettare il fatto, lui fa venire l'acqua quando vuol farmi triste. Mi affolla la mente, coi ricordi insiste. Così io mi sento sempre più strano, se ci guardo attraverso così lontano. Tra questi fili che cadono nel vento, si bagnano gli occhi, ma non per il maltempo. Lei è la pioggia che nel mio cuore riapre le ferite. Cade la pioggia, scende dall'alto come dinamite. Lei è la pioggia, la vedo, la tristezza mi assale. Cade la pioggia, ecco l'effetto che mi fa il temporale. Piove e mi abbatto disperazione alle stelle. Piano piano mentre la sento sotto la pelle. Entra nel corpo, l'anima inumidisce. Io sto male perché nessuno mi capisce. Forse non sanno cos'è davvero letale. No, un brutto ricordo con un crudele finale. Ma mi devo riprendere perché è naturale. L'amore è un assassino, già. Questa è la morale, butto le mie emozioni su questo foglio. Spero di dimenticarti, solo quello solo voglio quello. Una vita in libertà, la ricerca di altri amori, cioè. Ma quando sto per farlo ricordo i dolori, ricordo. Non possibile che proprio io non ce la faccia, no. Che mi sfoghi solo scrivendo un'altra traccia. Yeah. Ho la forza di sconfiggere l'amarezza della pioggia. Lo so che ce l'ho, la volontà in me alloggia. Yeah. Lei è la pioggia che nel mio cuore riapre. Cade la pioggia, scende dall'alto come dinamite. Lei è la pioggia, la vedo, la tristezza mi assale. Cade la pioggia, ecco l'effetto che mi fa il temporale. Il tormento uccide per quanto ancora dovrò sopportarlo, anche se è solo una solo parola, una la parola che fa sempre impallidire, mi fa venire in mente mille cose da dire. Dopo ore ed ore questa pioggia sta finendo. Dopo il buio immenso il sole sta splendendo. Dopo essermi sfogato da un dolore immondo, dopo essere stato male mi sto riprendendo. E in modo stupendo, ridendo, so che sto vincendo, uomo. Cade la pioggia. Cade la pioggia.